Europa 24. Tensioni, poi il referendum, il risultato che ha scioccato l'Europa e ora la Brexit torna ancora in bilico dopo la sentenza dei giudici britannici. Un saluto da Anna Migliorati, Bruxelles non ci sta, questo è il dato di fatto e allora questa mattina si sono sentiti il presidente della Commissione Juncker e il primo ministro britannico Theresa May. Juncker ha parlato con Theresa May questa mattina, hanno discusso della decisione dell'Alta Corte e il Presidente ha ribadito che la Commissione rispetta l'ordine costituzionale del Regno Unito, così conferma una portavoce spiegando che non spetta a Bruxelles commentare un ritardo o meno della Brexit. Con tutta probabilità la Premier britannica ha cercato di rassicurare la Commissione sul rispetto degli impegni presi, ovvero l'attivazione dell'articolo 50. Per l'avvio automatico dell'uscita dall'Unione entro marzo 2017. Ciò nonostante ieri i giudici abbiano stabilito che il governo non può avviare i negoziati senza il via libera del Parlamento. Una vittoria della manager Gina Miller, mentre Downing Street ha già presentato ricorso alla Corte Suprema. Intanto c'è chi chiede di andare al voto e i tabloid popolari, che si erano schierati a favore della Brexit, usano toni durissimi contro i tre giudici, nemici del popolo. Li definiscono Daily Mail e Telegraph. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono anche le vicende turche a preoccupare l'Europa, a dirlo per tutti l'altro rappresentante per l'Unione Europea Federica Mogherini, dopo gli arresti di alcuni deputati curdi compiuti in Turchia questa notte. Con un tweet la Mogherini afferma di essere in contatto con l'autorità di Ankara e di aver chiesto una riunione degli ambasciatori dei paesi dell'Unione presenti nella capitale turca per valutare la situazione. Lontana da un chiarimento, intanto, la vicenda tra Europa e Google. Respinte al mittente con manuale di istruzioni. La Commissione europea si è vista recapitare online la replica di Google alle accuse bollate come infondate di aver distorto la concorrenza con tanto di lezione sul commercio online. Da tempo nel mirino di Bruxelles su vari fronti, questa volta il colosso del web ha messo sul tavolo virtuale una memoria difensiva per contraddirla su due punti. Riguardo al servizio Google Shopping, che offre una comparazione tra i prezzi, le qualità e le recensioni dei prodotti che vengono venduti online, respinge l'accusa di promuovere la propria piattaforma shopping, di indirizzare le scelte degli utenti a discapito della concorrenza. Riguardo ad AdSense for Search, un servizio che consiste nell'inserire sui siti terzi una finestrella in cui effettuare le ricerche, Google esclude che sia abuso di posizione dominante, perché invece mette direttamente in contatto con il venditore. E ha fornito nero su bianco pagine web di documentazione. Per Google, le indagini avviate a Bruxelles da 7 anni dimostrano una visione del commercio online totalmente distante dalla realtà e antiquata. La risposta in un lungo post scritto ieri sul blog ufficiale da Kent Walker, vicepresidente della società, in cui addirittura contesta la definizione stessa di shopping online usata dalla Commissione. Troppo restrittiva, dice l'azienda, tanto che esclude persino Amazon, punto di partenza invece dell'e-commerce per i consumatori. Resta ancora aperta la questione di Android. Google ha ancora una settimana di tempo per rispondere alle accuse in merito e se non sarà convincente su tutti i 3 punti, le multe previste saranno miliardarie. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per l'Europa per ora ci fermiamo qui, come sempre l'appuntamento questa sera alle 21, effetto notte. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.